dicio noi, nel tal vegi di non si pastori, solo di tutta scolo col te, sono ardito, solo di tutta scolo col te, con la nave per monti per fiumi, tu sei qua che fra belli giornali,